كتفي قصبة زيتون وعلى كتفي نعشي وأنا أمشي وأنا أمشي وأنا أمشي وأنا وأنا وأنا أمشي منتصب القامة أمشي مرفوع الهامة أمشي منتصب القامة أمشي مرفوع الهامة أمشي في كتفي قصبة زيتون وعلى كتفي نعشي وأنا أمشي وأنا أمشي وأنا أمشي وأنا وأنا وأنا أمشي. 17:29 minuti primi, in ascolto dai microfoni di Radio Default, andiamo in onda con Radio Cufia, la trasmissione di aggiornamento dalla Palestina occupata. Ormai quasi un mese di bombardamenti incessanti sulla striscia di Gaza. E ricordiamo velocemente i contatti della radio, www.radiodefault.it per sentire, per trovare il nostro palinsesto, trovare il playerino da cui potete ascoltare in diretta la nostra radio e per essere anche aggiornati sulle nostre iniziative e le nostre appunto varie iniziative di piazza e di autofinanziamento. E ricordiamo sempre il pagina Facebook Radio Default per essere aggiornati in tempo reale su ciò che la radio sta trasmettendo e su ciò che avviene nel mondo. E ovviamente l'invito, anche se in estate è un po' complicato, è di passare qua nei nostri studios di Genzano di Roma, via Guido Baldi 56, dove potete anche interagire con la nostra redazione, con i programmi e appunto rendere live questa radio in ogni senso, oltre a poter venire a lasciare qualche spiccio, visto che noi ci autofinanziamo, non ci paga nessuno, ci pagano solo gli ascoltatori che gradiscono la nostra opera di controinformazione. Quindi torniamo su purtroppo gli aggiornamenti. Oggi praticamente siamo arrivati a quasi un mese di bombardamento incessante della striscia di Gaza, bombardamenti che hanno portato a 1865 martiri, di cui oggi, soltanto oggi, ne sono morti 60, tra l'altro gli ultimi 30, stiamo guardando le liste ufficiali del Ministero della Salute palestinese, gli ultimi 30 sono ancora, più degli ultimi 30 sono ancora senza nome e in quanto vengono tirati fuori dalle macerie dei giorni scorsi. 402 sono i bambini o comunque quelli che hanno meno di 18 anni periti martiri appunto della repressione sionista, l'80% dei martiri sono civili e il Ministero della Salute ci tiene a sottolineare che l'80% di coloro che è caduto in questo quasi mese di bombardamenti è per oltre appunto l'80% sono civili. E cifre che hanno fatto ormai superare, già è stata superata l'ultima volta che siamo andati in trasmissione, proprio mentre eravamo in trasmissione è stata superata il massacro del 2009-2010 chiamato Piombo Fuso. Ricordiamo che le ultime vittime più giovani sono stato un bambino di 2 mesi, Rizka Butaha, un bambino di 4 mesi, Mohammed Hanas, un bambino di 5 mesi, Fares Jumaha Al-Mahmoun, e una bambina di 8 mesi, Samaha Nail Al-Barawi. Quindi massacro di bambini, ma non solo massacro di palestinesi, anche devastazione delle infrastrutture che pigliamo i dati dall'Alternative Information Center, un gruppo israelo-palestinese che si occupa di lottare contro l'occupazione e i dati non aggiornati, cioè aggiornati a domenica, quindi sono sicuramente aumentati, ci dicono che sono state colpite oltre 24 presidi sanitari, quando si parla di presidi sanitari si parla di ospedali, cliniche mediche e via dicendo, 167 scuole che davano istruzione a 9.100 studenti, 6 università, quindi praticamente tutti gli atenei presenti nella striscia sono stati distrutti, atenei che ospitavano 100.000 studenti, e sono state distrutte oltre 20 istituzioni caritatevoli che davano assistenza appunto sociale a 180.000 palestinesi. Inoltre, secondo i dati dell'ONU, i palestinesi rimasti senza casa, rimasti profughi per la seconda volta dopo il 1948, ora sono circa 450.000, che costituiscono quindi il 25% della popolazione totale della striscia. Sono state poi colpite 8 pompe di sollevamento dell'acqua e 8 stazioni di depurazione delle acque fognarie che appunto ripulivano le acque per circa 700.000 palestinesi e chiunque è stato nella striscia sa che le condizioni delle acque sono già critiche dopo i bombardamenti di piombo fuso che hanno distrutto il più grande depuratore che non è mai potuto essere stato rimesso in funzione a causa dell'embargo criminale che da oltre 7 anni colpisce la striscia. Sono state colpite 118 moschee, di cui 81 sono state parzialmente danneggiate, mentre 37 sono state completamente distrutte. Tutto questo ricordiamo che è avvenuto durante il mese sacro del Ramadan, in cui le moschee sono ovviamente piene. Inoltre sono state colpite numerose strutture economiche, tra cui le banche, gli uffici postali, 52 barche da pesca, 52 pescherecci che erano la principale fonte di sussistenza per 2.950 famiglie. E quindi, insomma, siamo arrivati a un vero e proprio distruzione, non solo a un vero e proprio genocidio, ma anche a una vera e propria rasatura al suolo della striscia e delle proprie capacità di sussistenza. In tutto questo, ieri abbiamo avuto un'ennesima buona notizia, potremmo dire tra virgolette, tra tante virgolette, perché l'esercito, l'aviazione sionista è andata ha bombardato la scuola dell'UNRWA, l'agenzia dell'ONU che si occupa specificatamente dei rifugiati palestinesi, scuola dell'UNRWA sita nella città di Rafah, scuola che dava asilo a 3.000 persone, perché in questi giorni i bambini non vanno a scuola perché le scuole devono essere utilizzate per ospitare appunto quei 450.000 palestinesi che si sono ritrovati da un giorno all'altro senza una casa, e ha portato alla morte di 10 palestinesi. Questa è praticamente la quarta scuola che viene colpita, forse alla quinta gli danno una medaglietta, e aggressione a una scuola giustificata dalle autorità militari israeliane con il fatto di dover compiere un assassinio mirato di 3, dicono loro, terroristi appartenenti al Jihad Islamico che stavano su una motocicletta. Ovviamente 3 persone su una motocicletta sono un grandissimo pericolo, in una motocicletta non riesci manco a imbracciare un fucile, figurati a fare qualcosa, a sparare un razzo o che altro, e quindi poco importa che stavano vicino a una scuola con 3.000 persone, hanno colpito, hanno beccato la scuola e appunto il conto è arrivato a 10 martiri, nell'indignazione internazionale, dicendo che le scuole, dal segretario generale dell'ONU agli Stati Uniti, sono inalberati dicendo non si colpiscono le scuole, però vabbè, che vuol dire, le case si possono colpire? E soprattutto, se le scuole dell'ONU non si colpiscono, che state facendo voi affinché non vengano più colpite? Soprattutto suona strano questa condanna da parte degli Stati Uniti d'America, visto che proprio la settimana scorsa, durante la nostra trasmissione, abbiamo dato notizia del fatto che gli Stati Uniti hanno rimpinguato gli arsenali ormai vuoti israeliani, e quindi ricordiamo che le bombe che stanno venendo sganciate da giovedì a oggi sono bombe che vengono direttamente dagli arsenali statunitensi. In tutto questo, l'entità sionista ha dichiarato una tregua umanitaria di 7 ore che dovrebbe essere cominciata alle 10 di questa mattina e dovrebbe essere finita circa un'ora fa, e ovviamente sugli orari, ragioniamo sugli orari palestinesi, quindi un'ora in avanti rispetto ai nostri, e una tregua umanitaria che è stata rimandata al mittente da parte della resistenza delle varie fazioni palestinesi, che hanno detto questa tregua serve soltanto all'entità sionista a ripulirsi la coscienza dopo il massacro della scuola dell'ONU, questa tregua è unilaterale e noi non riteniamo di doverla rispettare. Soprattutto visto che è una tregua molto parziale, visto che riguarda tutta la striscia tranne la città di Rafah, che nei giorni scorsi ha visto la cattura da parte della resistenza di un soldato dell'occupazione e che è stata tenuta sotto bombardamento e sotto invasione per tutta la giornata di domenica e di sabato. Questo cosa ha significato? Ha significato che appunto la tregua vale dappertutto tranne in quella città. Ben altre invece sono le richieste che la resistenza ha fatto, attualmente tutte le fazioni palestinesi sono al Cairo per fare una mediazione indiretta, appunto arrivare a un cessato il fuoco mediato dalle autorità egiziane, che storicamente mediano appunto, cercano di organizzare le tregue, e la posizione unita delle varie fazioni palestinesi è quella di arrivare a un cessate il fuoco in caso di completo ritiro delle truppe dalla striscia di Gaza, la fine dell'assedio, l'apertura dei posti dei valichi di frontiera e soprattutto l'apertura del canale marino e il permesso ai pescatori di poter pescare entro le 12 miglia nautiche. Ovviamente nulla garantisce il risultato, però questa è la proposta della resistenza. La resistenza ha dichiarato di non voler cessare le operazioni e finché queste proposte non verranno accettate. E ora vi lasciamo uno stacchetto musicale e ci sentiamo fra qualche minuto. للوطن وما يغلى على الوطن غالي سجل واكتب يا زمن ودون بالدماء احواله هالجبهه وما اقبل العدو لو الموت جانا يا باي يا باي لما زالوا هالحدود مين فجر عليا رد الكرنايت وقال هذا العمل إهداء إلى روح الحكيم بمناسبة الذكرى الخامسة للرحيل مؤسس حركة القوميين العرب والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. غناء الفنان محمود الكحلوت، كلمات الشاعر معتز صافي، توزيع موسيقي وهندسة صوتية الفنان أسامة قاسم، اتحاد الشباب التقدم الفلسطيني المحافظة الوسطى. تم التسجيل باستوديوهات فرح. E 17:49 minuti primi, ritorniamo in onda con Radio Cufia, la trasmissione purtroppo solo di aggiornamento dalla Palestina occupata. Un mese quasi di bombardamenti incessanti sulla Palestina, sulla striscia di Gaza, e che ovviamente abbiamo dato prima una visione generale di ciò che sta a di ciò che è successo e che sta succedendo, e abbiamo parlato delle scuole abbattute e via dicendo, e ci arriva un comunicato del Ministero della Salute palestinese che appunto parla dei danni subiti dalla striscia e delle condizioni sanitarie critiche che la striscia sta vivendo. Abbiamo ricordato 10.000 case completamente distrutte, un quarto della popolazione che è profugo dentro la striscia senza possibilità di poter uscire, oltre 1.800 morti, e soprattutto il taglio dell'energia elettrica ha portato a la chiusura praticamente alla mancanza di elettricità praticamente in tutta la striscia, e anche per le strutture sanitarie che si ritrovano attualmente appunto senza energia elettrica, a parte quei pochi ciò che rimane dei generatori a gasolio o delle poche cliniche equipaggiate con pannelli solari. E soprattutto il Ministero della Salute fa sapere che sono ormai pieni gli obitori, 1.865 persone che non trovano più spazio nelle consuete sale mortuarie. Negli ultimi giorni sono girate immagini strazianti di bambini che vengono tenuti, cioè dei cadaveri, dei giovani martiri, dei giovani bambini che caduti in questo mese di bombardamenti, che vengono messi nei frigoriferi per i gelati. Abbiamo visto inoltre come le strutture sanitarie sono state colpite, ricordiamo la clinica l'ospedale per disabili UAFA e via dicendo. E quindi il Ministero della Salute sta chiedendo che venga ripristinata la fornitura elettrica urgentemente, venga fornita l'acqua e il materiale sanitario nei rifugi per gli sfollati, di fornire dei kit igienici appunto agli sfollati, di ripristinare il pompaggio fognario, visto che appunto le malattie non le portano solo i cadaveri, ma anche il fatto che ci sono 1.800.000 persone che vivono ormai senza acqua corrente e appunto con le fognature distrutte e via dicendo. E questo insomma è l'appello del Ministero della Salute palestinese, mentre il Ministro per i Lavori Pubblici, Mufid Al-Hassanieh, che è residente nella striscia di Gaza, ha dichiarato che appunto in questa offensiva, in questo massacro, sono state colpite 10.000 case che sono state completamente distrutte, mentre altre 30.000 sono state parzialmente distrutte. e ciò ha portato a un danno di circa 5 miliardi di dollari. Ricordiamoci che il PIL, il PIL annuale della striscia di Gaza è di circa 1 miliardo e 8, se la memoria non ci abbandona. Insomma, la distruzione di queste 10.000 e la parziale distruzione di altre 30.000 case, quindi 40.000 abitazioni in tutto, ha colpito circa, è stata molto più forte soprattutto nel quartiere di Shujaia, a est di Gaza, o nel villaggio settentrionale di Beit Hanun o a Basan, dove e nella sola Shujaia vivono circa 110.000 persone. Ovviamente i 5 miliardi di danni non comprendono il mobilio e gli effetti personali di ogni famiglia, né delle automobili. Inoltre ha dichiarato il ministro che nel colpire la centrale elettrica sono stati distrutti anche le taniche del diesel, del gasolio da cui si alimentava la striscia, per un danno di circa 25 milioni di dollari. E quindi questo è il bilancio economico, che non è tutto, visto che lo scorso primo agosto l'aviazione sionista è andata a colpire anche le infrastrutture produttive della striscia. Lo sta facendo ormai in continuazione, ricordiamo la fabbrica di imballaggi o le strutture agricole come i pollai e via dicendo. Ma la più grossa industria di Gaza, cioè la fabbrica Lauda, è stata distrutta, fabbrica che produceva dei pericolosissimi gelati e dei pericolosissimi biscotti, situata a Deir al-Balah, nella parte centrale della striscia. Insomma, è stata distrutta provocando un incendio che ha continuato a divampare anche per il giorno seguente, visto che i pompieri hanno difficoltà ad entrare, ad operare nelle zone bombardate. Il proprietario, il 38enne Iyad al-Tilbani, che ha ereditato la fabbrica dal padre 90enne che si trovava all'estero e di cui non è stata data notizia, visto che rischierebbe seriamente di avere un infarto, ha dichiarato che, oltre a tenere dei pericolosissimi gelati e dei pericolosissimi biscotti, la fabbrica Alauda teneva nei propri frigoriferi anche anche i medicinali che gli ospedali non potevano tenere per mancanza di corrente elettrica, e quindi lui si è offerto gratuitamente di stoccare i medicinali della Croce della Mezzaluna Rossa palestinese. Addirittura due tir di medicinali abbastanza rari, che sono stati anch'essi distrutti. Il report completo anche delle varie delle infrastrutture produttive distrutte lo trovate su Electronic Intifada ad opera di Rami Al-Megari. E ritorniamo anche sull'aspetto culturale, visto che l'ultima università ancora rimasta in piedi in questo attacco è stata colpita a domenica, l'Università Islamica di Gaza City, andando così a distruggere la più grande e la più importante istituzione istruzione superiore nella striscia. L'esercito sionista d'occupazione ha giustificato la distruzione di un'università con il fatto che era una struttura dove Hamas faceva ricerca e sviluppo per la costruzione delle proprie armi. Noi ricordiamo che Hamas costruisce i propri razzi con i tubi innocenti e un po' di polvere pirica e di esplosivo, quindi non c'è bisogno di un'università per fare tutto questo. e che è poi la stessa giustificazione che utilizzò nel 2008 nell'offensiva Piombo Fuso, quando distrusse 74 laboratori dell'università e insomma, all'epoca la commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite, che ha prodotto il cosiddetto rapporto Goldstone, ha sbugiardato questa giustificazione, dicendo che erano edifici civili educativi e che la missione d'esplorazione dell'ONU non aveva alcun non ha trovato nessuna prova reale dell'utilizzo di queste strutture, appunto, da parte della resistenza. Noi ricordiamo l'università islamica come sede del Festival Palestinese delle Arti e della Letteratura, che ovviamente quest'estate non si potrà tenere né per le bombe né in ritardo, perché appunto l'edificio è stato distrutto, e questa ci sembra appunto un nuovo valido motivo per portare avanti il boicottaggio accademico e culturale delle università e dell'istruzione sionista. Chi dice oggi non si può fermare la circolazione della cultura, noi diciamo che la circolazione della cultura prodotta dagli occupanti israeliani in Palestina va avanti, si occupa di creare quelle armi che poi vanno a distruggere la cultura palestinese. Quella secondo noi non è cultura, oltretutto quella pseudocultura che viene prodotta in Israele serve poi a giustificare giustifica la distruzione della cultura palestinese. Quindi questo ci sembra un ennesimo lampante motivo affinché bisogna combattere nelle nostre università e nelle nostre strutture educative, scuole superiori e via dicendo, per fare in modo che appunto i nostri luoghi della cultura non vengano insozzati da professori israeliani e insomma, speriamo che appunto questa sia possa mettere finalmente il punto a questa disputa che qualche professore un po' troppo zelante vorrebbe portare avanti, giustificando appunto le proprio invito a professori sionisti o i propri assegni di ricerca pagati dalle università sioniste. Ritorniamo fra qualche minuto con gli aggiornamenti dalla US Bank e ci vediamo appunto fra qualche minuto. من عهد النسر الأحمر سبنا الحمل رجال كتائب أبو علي تثقر للدم اللي سال خاطر واكتب يا تاريخ اكتب بالبندوقية هل الراي على المريخ احنا الجبهة الشعبية طلت الراي الحمراء رايات الجبهاوية باسمك حكيم الثورة باسم الجبهة الشعبية في قلوب الفداء E ritorniamo 18.06 su Radio Cufia, la trasmissione purtroppo di solo aggiornamento dalla Palestina occupata, ormai arrivata a quasi un mese di bombardamenti continui sulla striscia di Gaza e al secondo mese di repressione intensa dopo la cattura e l'abbattimento da parte della resistenza dei tre coloni di Gush Etzion. Passiamo ora dall'altro lato geografico della Palestina, cioè alla West Bank e a Gerusalemme. Oggi a Gerusalemme c'è stata quella che viene chiamata un'operazione terroristica. Noi ancora devono essere resi noti i particolari, ben i particolari di ciò che è successo oggi a Gerusalemme, nella parte orientale, dove il guidatore di un'escavatrice ha speronato un autobus vuoto. Il conducente, in questi fatti, che ancora dobbiamo capire se è stato un incidente, un'operazione di resistenza o che altro, in questi fatti è morto un 25enne, un colono di 25 anni e il guidatore è stato ucciso da un poliziotto presente, anche se dal video che è stato girato e che è disponibile sul sito dell'agenzia Maan, maannews.net, sembra che la polizia cominci a sparare ben prima che l'escavatrice colpisca l'autobus, e quindi noi non possiamo che fare le condoglianze alla famiglia del conducente della scavatrice e speriamo di avere informazioni maggiori, visto che per ora girano solo le veline della polizia sionista e questo video girato da un video amatore. Inoltre, dopo le manifestazioni di venerdì scorso, è stata indetta la giornata della rabbia in tutte le città della West Bank, in solidarietà con la popolazione di Gaza martirizzata dall'occupazione sionista, manifestazioni che hanno visto due martiri uccisi dalla polizia di frontiera e svariati centinaia di arresti. pare che oggi siano continuati le ondate di arresti. Secondo l'Independent Middle East Media Center sono circa una decina i palestinesi arrestati in varie città della West Bank, a Beit Umar, al campo profughi di Haida e via dicendo. E poi continua anche la repressione su il villaggio di Al-Issawiya. Villaggio di Al-Issawiya, che conosciamo tutti per essere la patria di Samir Issawi, il prigioniero politico che ha fatto lo sciopero della fame più lungo della storia umana, e villaggio che ormai è da 2 mesi che è sotto assedio da parte delle truppe di occupazione. E sta dichiarando Muhammad Abu Hummus, un residente, membro del comitato locale di resistenza, ha dichiarato che la polizia e la polizia di frontiera, che ricordiamo essere una sorta di polizia celere composta prevalentemente da ex criminali, e che chiunque è stato in West Bank ha imparato a conoscere come la più violenta e la più il corpo con minor scrupolo all'interno delle forze d'occupazione, tutte le sere entrano nel villaggio dopo il tramonto, sparano dell'acqua puzzolente, perché ormai anche questa è una delle nuove metodi di controllo delle manifestazioni: spruzzare l'acqua di fogna che ti lascia puzzolente per almeno una settimana. Sparano quest'acqua sulle abitazioni, sulle automobili, e sparano in maniera indiscriminata dei candelotti lacrimogeni all'interno del villaggio. E ora le nostre abitazioni e le automobili hanno un persistente odore di rancido, mentre ognuno soffre appunto per l'inalazione dei gas, donne, bambini, anziani e uomini. E soprattutto venerdì, dopo le preghiere, c'è stata una particolare repressione, dove oltre ai lacrimogeni e all'acqua puzzolente sono stati sparati le cosiddette pallottole di gomma, che in realtà sono dei bei bombaccioni di alluminio con un leggero strato di gomma rigida che fanno tanto male, a dispetto del nome. E numerose persone sono state ferite. Uno di questi proiettili è passato attraverso una finestra aperta e ha quasi colpito un bambino piccolissimo che stava tranquillamente dentro casa. Oltretutto gli abitanti notano che gli ufficiali della polizia spesso lanciano delle pietre nel villaggio, danneggiando ovviamente le automobili e chi si ritrova a passare. E questa è una situazione che va avanti da ormai parecchio tempo ad Issawiya, che è all'interno dei confini della municipalità di Al-Quds di Gerusalemme, e che sta assistendo dal 1967 a delle politiche demografiche di giudaizzazione che vedono ogni anno l'espulsione dei residenti autoctoni palestinesi. In tutto questo, sabato scorso c'è stata un'ennesima manifestazione, questa volta a Tel Aviv, dove circa 500 persone 500 abitanti israeliani solidali con la popolazione di Gaza hanno voluto manifestare la loro contrarietà all'operazione attualmente in corso. 500 persone che si sono ritrovate, che non sono potute entrare nella piazza dove era stata concessa l'autorizzazione per la manifestazione, si sono ritrovati appunto all'ingresso della piazza, poi sono stati cacciati anche dall'ingresso della piazza, e è partito un corteo interno alla città di Tel Aviv, che ha visto anche là il suo carico di repressione. Noi ovviamente siamo convinti che la liberazione della Palestina avverrà solo e soltanto per mano dei palestinesi e per una ripresa di un percorso resistenziale da parte delle varie componenti della società palestinese, una resistenza a 360 gradi che non sia ovviamente né solo militare né solo civile, ma che veda appunto la coesistenza di varie forme di resistenza, ma riteniamo che sia buono il fatto che anche all'interno della società coloniale, come quella israeliana, ci siano appunto dei coloni che vogliano dire basta con l'apartheid e basta con l'occupazione. E tutto questo, c'è anche l'ennesimo fronte, quello che è andato su andato alla ribalta qualche mese fa con lo sciopero della fame, quello dei prigionieri, e che ora è passato ovviamente in secondo piano rispetto ai bombardamenti in corso, e il ministro per gli affari dei detenuti ha dichiarato sabato che le autorità carcerarie sioniste hanno imposto delle punizioni collettive, ulteriori punizioni collettive sui prigionieri palestinesi. Questo ovviamente dopo la vittoria dello sciopero della fame hanno fatto in modo di prendere appunto hanno preso a giustificazione l'offensiva che stanno conducendo le autorità d'occupazione per stringere le maglie della repressione anche su chi la repressione la vive 24 ore al giorno. Gli avvocati dei prigionieri hanno dichiarato che sono aumentate esponenzialmente le multe contro i detenuti, le ispezioni, le perquisizioni arbitrarie quasi ogni giorno, il sequestro degli oggetti personali e le proprietà personali dei prigionieri, oltre che il loro continuo trasferimento in carceri sempre differenti, la negazione delle visite, colloqui familiari e il divieto di accesso allo spaccio della prigione allo spaccio della prigione, ai canali televisivi e all'ora d'aria. Ricordiamo che ci sono più di 6.500 palestinesi attualmente nelle carceri più di 1.000 sono stati arrestati solo negli ultimi 2 mesi nella serie di retate che l'autorità sionista ha fatto, secondo loro, per cercare i 3 coloni che si è scoperto poi essere stati subito abbattuti dalla resistenza palestinese e che le autorità sioniste sapevano che erano già stati abbattuti subito dopo il loro sequestro. Noi ritorniamo fra qualche minuto con gli aggiornamenti internazionali e con le informazioni sulle mobilitazioni in questo paese, e a fra poco. Yeah. شبكه السموم يا ابواب تعلن سور الحمرا مروح من العسكريه نسقيهم من ويلك جرعه ويحكم الجبهويه يا ابواب تعلن سور الحمرا مروح من العسكريه نسقيهم من ويلك جرعه ويحكم الجبهويه يا ابو علي مصطفى الله محيي الشعبيه يا سبع والشعب الفدا حيا للجبهويه الله الله شعبية واصحى الميدان سلاحها شارة حرية على مهلك يا بني ضال وضمن الفدائية شعبية واصحى الميدان سلاحها شارة حرية على مهلك يا بني ضال وضمن الفدائية يا ابو علي مصطفى e 18 e 21 minuti primi, sempre su Radio Default, sempre su con Radio Cufia, la trasmissione di aggiornamento dalla Palestina occupata, ormai arrivata a quasi un mese di bombardamenti incessanti per quanto riguarda la striscia di Gaza. Prendiamo ora, andiamo sull'internazionale, volevamo leggervi le dichiarazioni del ministro degli esteri francese Fabius, che ha condannato anche lui il bombardamento della scuola dell'UNRWA ieri a Rafah. Noi però non ve lo leggiamo perché a noi Fabius ci fa schifo. Se fosse davvero così preoccupato per la situazione, si preoccuperebbe anche per le altre migliaia di morti civili, di cui un terzo, ricordiamo, sono bambini, e eviterebbe con il suo governo di vietare le manifestazioni a sostegno del popolo palestinese, perché è questo che sta avvenendo oggi in Francia, il divieto a tutte le manifestazioni di sostegno al popolo palestinese. Divieto fortunatamente ignorato dalle organizzazioni anticapitaliste d'Oltralpe, tra cui ricordiamo l'organizzatore della manifestazione della scorsa settimana, l'NPA, le Nouveau Parti Anticapitaliste, invece ora ci muoviamo maggiormente sulla società civile statunitense, che anzi sul mondo del jet set statunitense. Abbiamo ricordato la scorsa settimana l'appello lanciato in Spagna da Penelope Cruz e Javier Bardem, che è stato firmato da un centinaio di artisti e intellettuali degli stati spagnoli, tra cui Pedro Almodovar. Ora è il momento del coming out di Brian Eno, storico musicista e produttore, tra gli altri, degli album di David Bowie e degli U2, che ha scritto una lettera che potete trovare su Addicting Info, in cui dice che non la leggiamo tutta, leggiamo qualche passo, lo traduciamo al momento pure, quindi... Oggi ho visto l'immagine di un uomo palestinese che correva tenendo in mano una busta di plastica, di quelle che si usano per la carne, e nella busta c'era suo figlio. il bambino era stato smembrato, secondo il comunicato dell'ufficiale dell'ospedale, da un attacco missilistico israeliano che a quanto pare stava utilizzando le nuove delle armi nuove di zecca, delle bombe flechette, che sono delle bombe che contengono migliaia di piccoli dardi che straziano la carne umana. Il ragazzo si chiamava Mohammed Khalaf al-Nawazra ed aveva 4 anni. Immediatamente ho cercato di pensare a come potrei sentirmi se a dover trasportare mio figlio in una busta di plastica mi sono sentito molto triste per parecchio tempo. Allora poi ho letto che le Nazioni Unite hanno dichiarato che Israele potrebbe essere colpevole di crimini contro l'umanità e che volevano lanciare una commissione di ispezione per verificare se oggettivamente ci sono stati questi crimini. E ho scoperto che l'America non ha firmato questa richiesta. Continua appunto lanciando strali contro il suo paese, che appunto ricordiamo essere uno dei maggiori fornitori di armi all'entità sionista. Racconta di come è andato in Palestina a trovare la sorella che lavora nell'UNRWA a Gerusalemme dichiara: per il processo di pace. Israele vuole il processo, non vuole la pace. Mentre il processo va avanti, coloni continuano a appropriarsi della terra e a costruire i loro insediamenti. E allora, quando i palestinesi finalmente sbottano con i loro patetici fuochi d'artificio, pigliano e vengono massacrati e ridotti a brandelli con dei missili fatti a regola d'arte e con obici di mortaio composti da uranio impoverito, perché Israele ha il diritto all'autodifesa, mentre ovviamente la Palestina chiaramente non ha questo diritto. Le milizie dei coloni sono sempre contenti di pigliare a pugni qualche palestinese o di sradicare i loro olivi mentre l'esercito guarda dall'altra parte. Comunque la maggior parte di loro non sono nemmeno israeliani. Il loro razzismo vecchia scuola ha portato lo stesso tipo di razzismo arrogante e senza vergogna che i cosiddetti vecchi cari ragazzi della Louisiana erano soliti portare avanti con la popolazione nera. Questa è la cultura che stiamo difendendo con le nostre tasse, e a me sembra di star mandando denaro al Ku Klux Klan. Questa qua è la voce di Brian Eno. Ovviamente speriamo sempre che la società civile e la società artistica e culturale italiana possa portare a simili dichiarazioni di sdegno, ma a quanto pare non ci sembra che ci siano tali dichiarazioni di sdegno. Il massimo che è successo è stata la manifestazione a sostegno di Israele firmato da quell'infame di Roberto Saviano, Raiz, l'ex cantante degli Alma Megretta, e Paola e Chiara, che noi non credevamo possibile potesse occuparsi di qualcosa oltre il proprio smalto per le unghie, però evidentemente anche quello è possibile, che sono andati appunto a braccetto con Aznar e altri esponenti dell'estrema destra italiana e europea a sostegno dell'occupazione e del massacro del popolo palestinese. Invece ricordiamo sulle buone notizie: pare che il boicottaggio di Israele funzioni e che questa campagna di bombardamenti non stia portando una buona immagine all'entità sionista. abbiamo ricordato il boicottaggio obbligato che le compagnie aeree sono state costrette a fare nei confronti dell'aeroporto di Tel Aviv, che era sotto i colpi dei razzi della resistenza, e quindi Alitalia, Lufthansa e addirittura le linee aeree statunitensi hanno interrotto i voli da e per l'entità sionista, voli poi ripristinati. E invece abbiamo scoperto che i principali esportatori israeliani si sono ritrovati con gli ordini cancellati a causa di questo massacro. Prendiamo la notizia dal sito internazionale della campagna BDS, bdsmovement.net, e il produttore di frutta, in questo caso Priniv, che è uno appunto dei principali esportatori di frutta israeliana, ha dichiarato che un contratto di esportazione di frutta, di frutti, di succhi di frutta fresca per la Svezia sono stati cancellati perché appunto la sua merce era prodotta in Israele. Inoltre le controparti belghe e francesi hanno fatto delle richieste simili, appunto, di cancellare le ordinazioni. E questo costerà alla compagnia circa un milione e mezzo di shekel israeliani. E questo appunto è un punto a favore che si sta portando avanti, che si porta a casa, e soprattutto dopo che abbiamo il movimento BDS ha incassato molti punti a favore per quanto riguarda l'acqua. Visto che molte ditte olandesi, argentine, brasiliane e nord europei hanno cancellato i loro accordi bilaterali con la Mekorot, che è l'equivalente sionista dell'ACEA, accusata di portare avanti un'apartheid idrica, e quindi appunto queste aziende hanno interrotto ogni contratto. Purtroppo non l'ha interrotto i contatti l'ACEA, che invece ha stretto un accordo di collaborazione lo scorso novembre, dopo la visita del primo ministro sionista Netanyahu, e quindi su questo vanno i nostri sforzi. Noi abbiamo chiuso anche questa puntata speciale. Ricordiamo gli appuntamenti di mobilitazione con il presidio permanente indetto dalla Rete Romana di Solidarietà col Popolo Palestinese, che sta portando avanti questo presidio itinerante in vari punti di Roma. Da ieri si è spostato a Largo Argentina, dal lato della Feltrinelli, tutti i giorni dalle 17 alle 20, cioè ieri, oggi e anche domani. Da dopodomani si sposterà in un'altra piazza di cui ancora non abbiamo notizia, ma ve ne daremo prontamente sulla nostra pagina Facebook Castelli per la Palestina. Noi vi diamo appuntamento a giovedì prossimo, sempre che non finisca l'offensiva contro la striscia di Gaza. Questa è l'unica trasmissione di Radio Default a non andare in vacanza fino a che appunto la Palestina non sarà liberata e non verrà riconosciuto il diritto al ritorno per tutti i profughi. Ricordiamo velocemente i contatti della radio: www.radiodefault.it, in cui potete trovare il nostro palinsesto, ormai quasi fermo per l'estate, e le nostre iniziative, la nostra pagina Facebook Radio Default, dove potete essere aggiornati in tempo reale su ciò che questa radio trasmette, su ciò che avviene nel mondo. E ovviamente l'invito è sempre di raggiungerci in quel di Via Guidobaldi 56 per venire a trovare la redazione e venire a sostenere anche economicamente questa radio, che campa delle sottoscrizioni di chi l'ascolta e di chi la ama. Noi vi mandiamo la nostra nuova sigla finale, Udrub Udrub Tel Aviv 2.0, colpire colpire Tel Aviv. Buona libertà a tutte e a tutti, ai Castelli Romani, in Italia come in Palestina.